Questo è il nostro mondo. Un posto caldo, accogliente e familiare. Ma volgendo lo sguardo verso l'alto, i nostri pensieri vagano nello spazio infinito. Siamo solo puntini insignificanti? L'universo c'è amico o c'è nemico? Potremmo rimanere qui a porci queste domande per sempre. Oppure abbandonare questi luoghi a noi noti e partire. Ritmi e musica, gli accenti, musica più oscura, tempi e componimenti musicali e tempi è lo scopo di... Ritmi, musica, gli accenti, ritmi, musica più oscura, tempi e gli accenti, compositore Luca Nois. Uno spazio di comunicazione. Cerco uno spazio di comunicazione. Compositore Luca Nois. Musica, gli accenti, che musica, oscura, musica, gli accenti, che musica, oscura, dura, dura, dura, dura, dura. Ritmi e musica, che avvicini le persone. Ritmi e musica, oscura. Same when I come by, don't forget you told me that you'll always pick up. pick up when I go and take a left to go. Take a left to go. 'Cause everywhere I go, you'll be my home. I take a left to go. No matter where I go, you'll be my home. I take a left to go. Have to deal with the tears. Feel the radiation of my feelings. I can't give them a meaning, but I know that you're worth the risk. I can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that. You'll always pick up when I call. I take a left to go. Take a left to go. 'Cause everywhere I go, you'll be my home. I take a left to go. Take a left to go. No matter where I go, you'll be my home. I take a left to go. Qui non è tutto roccia e ghiaccio, perché questa è una terra che si trasforma. Un viaggio in questi territori ha il potere di cambiarlo. Qui il mondo non vi sembrerà più lo stesso. Esto es el viaje. Esta es la estrada. Viaje. De Luca Nons. Sono queste le cose che ci tengono in vita. dell'amore. Listening to the frequency of Luca Noise. Dreams we have, have we shared.